Servire Cristo è un dono e un grande privilegio. Finché non vediamo questa verità, non comprenderemo mai il vero significato di questo dono. Il salmista, parlando con Dio, diceva con orgoglio: «I tuoi statuti sono per me dei cantici». 119:54. Per chi ha capito il valore di un cammino retto non è fatica, né una pena osservare il volere di Cristo. Forse pensiamo eventualmente di fare un dono a Dio compiendo la sua volontà. Dobbiamo invece entrare nell'ordine di idee che camminare secondo le regole divine è per noi una benedizione immensa. Se Dio ha ordinato di non rubare, di non commettere adulterio, di non concupire, è stato soltanto per il nostro bene, perché si possa vivere bene nella società e non perché Lui ha bisogno del nostro cammino retto. Nel libro di Giobbe, Elifaz, uno degli amici molesti, pone queste domande: può forse l'uomo recare qualche beneficio a Dio? Certamente il saggio reca beneficio a se stesso. Quale piacere ne riceve l'Onnipotente se tu sei giusto? O quale guadagno ne ha se la tua condotta è integra? Giobbe 22:1. E, vero, compiere la volontà di Dio è solo un estremo bene per noi che dobbiamo vivere in questo mondo e in questa società. Eppure, nonostante sia un dono che si potrebbe ricevere incondizionatamente e senza riserve, siamo ricalcitranti e spesso dobbiamo compiere un atto di volontà per soddisfare il volere di Dio. Ne è un esempio la chiamata del profeta Isaia. Nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, l'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Allora io dissi: «Ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti». Allora, uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato». Questo episodio, ripreso in seguito da Giovanni nel suo Evangelo, dove si legge che in quel momento Isaia vedeva la gloria di Cristo, GQ 12.41, ci insegna che la volontà di Dio e quella dell'uomo devono collaborare armoniosamente. Vediamo come. Per servire Cristo, innanzitutto bisogna vedere la gloria di Dio. Con questo si intende dire che per servire Cristo non è sufficiente essere dei figli di Dio, ma occorre qualcosa di più, quel di più che fa la differenza. Inizialmente, quel qualcosa di più si identifica in chi è già attivo. Dio odia chi non sfrutta le proprie capacità. Luca 19:1-127. Chi è un fannullone? Perché nel campo di Dio non vi è spazio per la pigrizia. Mosè stava pascolando quando l'Eterno lo chiamò, mentre Gedeone e Eliseo stavano arando. Pietro e Giovanni stavano pescando, quando Gesù li scelse per farli diventare pescatori di uomini, mentre Matteo stava sul posto di lavoro e Paolo era in viaggio per svolgere un'illecita attività, che Dio poi trasformerà in lecita. Queste persone videro la gloria di Dio, cioè, nella loro vita ordinaria ebbero un incontro speciale con il Dio Trino, un incontro che andava oltre la loro fede ordinaria e in virtù del quale ebbero la consapevolezza di essere stati chiamati ad un servizio speciale. Dopo aver visto la gloria di Dio, Isaia disse: «Povero me, sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure». Isaia vide la sua miseria, la sua incapacità, come del resto videro la propria indegnità Mosè e Geremia, i quali proprio per questo non si ritennero migliori di altri. Questo è l'uomo che può servire Cristo. Non si serve nel regno di Dio perché ci si crede migliori degli altri, ma si è migliori di altri perché si serve Cristo. L'Eterno consolò Isaia dicendo che la sua iniquità era tolta. 6.7. Non si può servire liberamente Cristo se si porta sempre il peso dei propri peccati. Per questo nella lettera agli Ebrei leggiamo l'ordine di deporre ogni peso e il peccato, Ebrei 12, 1 a 3. Solo essendoci liberati, possiamo servire, correndo verso il traguardo e il premio promesso. Purtroppo vi sono ancora uomini e donne impegnate nell'opera di Dio il cui cammino non è retto. A queste persone empie Dio dichiara: che diritto hai di elencare i miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle? Se vedi un ladro, ti metti con lui volentieri e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Tu siedi, parli contro il tuo fratello e diffami il figlio di tua madre. Salmo 50, 16, 20. Notiamo che queste persone sono credenti che non accettano di essere ripresi, che non commettono peccati apparentemente, anche non gravi come il dire male di un fratello, però alla fine saranno chiamati maledetti da Gesù, il quale li lascerà andare nella perdizione eterna, Matteo 25.41. Questo è il dramma. Si può pensare di servire Cristo eppure essere maledetti da Dio. Il racconto della visione di Isaia prosegue in questo modo. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi: eccomi, manda me. Allora egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate pure ma senza comprendere, guardate pure ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, indurisci i suoi orecchi e chiudi i suoi occhi, affinché non veda con i suoi occhi, né oda con i suoi orecchi, né intenda con il suo cuore, e così si converta e sia guarito. Io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: finché le città siano devastate e senza abitanti, le case siano senza alcun uomo e il paese sia devastato e desolato, e finché l'Eterno abbia allontanato la gente e vi sia un grande abbandono in mezzo al paese. Quel poi che leggiamo all'inizio del testo è molto significativo. È un avverbio di tempo che indica una successione di fatto e di tempo, il che vuol dire che dopo o durante la visione successe qualcosa. Non successe mentre Isaia guardava la televisione o alla visione di uno spettacolo cinematografico, ma mentre vedeva la gloria di Dio. Cosa successe? Isaia udì la voce del Signore. Quante persone vorrebbero udire la voce di Dio? Dobbiamo dire fortemente con fermezza che per udire la voce di Dio occorre mettersi in condizioni che lo consentano. Perché i giovani di oggi, per udire bene la loro musica preferita, si mettono le cuffie nelle orecchie, per non essere disturbati da altri rumori? Perché il medico si mette lo stetoscopio all'orecchio? Per poter udire bene le eventuali patologie del malato. Così, per udire la voce di Dio, è necessario indirizzare tutta la nostra attenzione, con un cuore puro, all'ascolto della sua parola. Cosa voleva l'Eterno Dio? Voleva un araldo, voleva una bocca che proferisse la sua volontà. Non poteva l'Eterno Dio parlare direttamente all'uomo? Sì, poteva, e a volte lo ha anche fatto. Ma, visto che gli uomini non ascoltano, Dio ha deciso di salvare gli uomini mediante la follia della predicazione. 1 Co. 1.2.1. Dio tuttavia non obbliga nessuno. Cristo rende gli uomini liberi dalla schiavitù del peccato e dalla paura degli uomini, ma non vuole che nel suo regno vi sia alcuno obbligato a servirlo. Infatti, spesse volte Gesù ha detto ai suoi discepoli: se uno vuole seguirmi, MT 16.24, non voi dovete seguirmi. Servire Cristo è possibile solo con una risposta costretta dall'amore ricevuto da Lui. 2 Co. 5.14. Ogni altra motivazione rende vano qualsiasi lavoro per Dio. Presa coscienza che Dio aveva bisogno di un araldo, Isaia si mette a disposizione chiedendo di essere mandato. Solo allora Dio lo invia come missionario. Questo aspetto della chiamata di Isaia deve essere ricordato, perché non è sufficiente avere il desiderio di servire Cristo in un modo specifico. Il re Davide aveva in cuore di costruire un tempio per l'Eterno, tuttavia, pur essendo felice di questa decisione, l'Eterno non glielo permise, proprio come Gesù che non permise al matto indemoniato, guarito di seguirlo, ma lo rimandò dai suoi familiari per raccontare loro le grandi cose che Dio aveva fatto nella sua vita, Marco 5.1820. Per servire Cristo in modo positivo occorre allineare la propria volontà con quella di Dio, diversamente si soddisfano solo le proprie aspettative per quanto esse possano essere moralmente accettabili e auspicabili. Come è imperscrutabile la chiamata di Dio? Abramo ha dovuto lasciare la sua parentela. Mosè ha ricalcitrato con insistenza più volte e l'Eterno ha insistito più di lui. Davide ebbe un travaglio non indifferente prima di essere riconosciuto da tutto il popolo che era il re unto dall'Eterno Dio. Geremia si è lamentato perché era giovane, ma il suo Dio non gli ha dato retta. A Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, Gesù ha rivolto l'invito di seguirlo più volte mentre ha dovuto disarcionare Paolo dal cavallo e renderlo momentaneamente cieco per attirarne l'attenzione. Alcuni hanno ubbidito subito, altri, come il profeta Giona, hanno dovuto subire la mano pesante di Dio prima di essere degli eraldi. Ma tutti, come del resto ho fatto anch'io, hanno scaricato la responsabilità della loro chiamata su Dio, e nella sua fedeltà Dio è stato con loro e li ha liberati da ogni male, non tanto dal male fisico o da sofferenze di svariato genere, ma da tutto ciò che per loro era dannoso spiritualmente. Una volta compresa la sua chiamata, Isaia chiede fino a quando doveva essere valido o efficace questo suo compito, e l'Eterno Dio gli risponde che doveva parlare fino a quando ci sarebbe stato un solo abitante nel paese. Questa è la chiamata a servire Cristo, e chi ha capito questo non può che ripetere le parole del salmista: «O Dio, tu mi hai ammaestrato fin dalla mia fanciullezza, e fino ad oggi io ho annunziato le tue meraviglie. E anche ora che sono diventato vecchio e canuto, o Dio, non abbandonarmi fino a che abbia raccontato la tua potenza a questa generazione e i tuoi prodigi a tutti quelli che verranno». Salmo 71.1718. L'ultima parola, l'ultimo desiderio, l'ultimo respiro per chi serve Cristo sarà per riconciliare l'uomo a Dio, l'increduro perché possa essere salvato, il figlio di Dio, perché possa in ogni occasione glorificare il suo Salvatore. Poi, fino al Nuovo Testamento, egli rimetterà il suo spirito nelle mani del Padre, Luca 23.46, per ritrovarsi per sempre nella vera e completa gioia. C. È forse qualcosa di più bello? Maggio 2009. Ellero.